Tra pochissimo Trump presenta il piano del secolo per la questione israelo-palestinese. Ma sarà davvero così? Benvenuti a una nuova puntata. Nessun luogo è lontano di Giampaolo Musumeci. Peace in the Middle East has been long sought for many, many, many years and decades and centuries, and this is an opportunity. We'll see what happens. Palestinian Authority President Mahmoud Abbas said Palestinians want a political solution first. Welcome back to our place of work. Buona giornata, ben ritrovati ascoltatrici e ascoltatori, sono le 16.08 e 8 secondi in questo esatto istante. Inizia una puntata molto importante di Nessun Luogo è Lontano, non voglio sottolineare le funzioni di questo programma, è che vi stiamo raccontando quello che potrebbe essere la scrittura di un capitolo chiave della recente storia nel Medio Oriente. Perché? Lo sentivate dai titoli, il presidente statunitense Donald Trump sta per annunciare in pompa magna quello che è un piano custodito nel cassetto da parecchi mesi ormai, dobbiamo dirlo, e ritardato nella sua pubblicità e pubblicazione molto probabilmente per le complesse vicende legate alla politica interna israeliana. Lo sapete, si torna al voto il 2 marzo per una nuova eclatante tornata elettorale. Detto ciò, se le indiscrezioni trapelate, se le fonti statunitensi hanno, come dire, sussurrato le parole giuste, assisteremo all'annuncio di un colossale piano di investimenti, qualcuno l'ha battezzato il piano Marshall per la Palestina, comunque 50 miliardi di dollari per infrastrutture, salute e economia che andrebbero ai palestinesi. Dall'altra parte, il completamento di un percorso di riconoscimento di Israele come fedele alleato, complice anche il riconoscimento delle colonie, e quindi andare a ridisegnare davvero un'altra volta i confini in quella complessa e anche martoriata regione. 349-238-6666 per i vostri commenti e i vostri WhatsApp che stanno arrivando. Vi ricordo che anche questa puntata è stata confezionata con tutta la squadra di Nessun Luogo: Antonio Talia, Lara Sesana, Giulia Cannizzaro, Valentina Ternullo, Evelina Bernardi che è in regia. Le altre coordinate sono Facebook, Nessun Luogo Lontano trattino Radio 24, oppure Twitter. I due account da seguire sono Nessun Luogo 24, ovvero il mio personalissimo che è Giampaz, ma adesso 16:10, termometro internazionale. Un altro aggiornamento, sempre dal punto di vista dell'attualità internazionale, che riguarda il coronavirus. È interessante la dinamica che si è innestata a Hong Kong, lo ricorderete, l'abbiamo ricordato spesso, regione amministrativa speciale cinese, ex colonia britannica, al centro ormai da mesi e mesi di una contesa che ha assunto anche i tratti della violenza e della ferocia fra il potere di Pechino e i manifestanti di Hong Kong. Detto ciò, quello che sta accadendo è che Hong Kong sta provando a isolarsi per evitare il contagio, quindi la città ha annunciato tagli ai servizi di trasporto con il resto del territorio cinese. In particolare, treni ad alta velocità e traghetti saranno sospesi da giovedì, dimezzati anche i voli e sospesi i visti personali per i cittadini cinesi. Come potete immaginare, e se ascoltate questo programma vi abbiamo spesso dato conto delle tensioni tra Pechino e Hong Kong, questa mossa non fa che alimentare evidentemente le tensioni, che si aggiungono a un capitolo francamente piuttosto inquietante che si è consumato nella giornata di ieri, quando alcuni manifestanti hanno assaltato una palazzina che avrebbe dovuto ospitare pazienti affetti da coronavirus e messi appunto in quarantena. È, come si dice, gettare olio sul fuoco. Stanno già arrivando tanti messaggi al 349-238-6666, datemi pochi minuti e ve ne darò conto. Fatemi prima però andare in Burkina Faso, lo sapete che è un quadrante a noi caro, nel senso che è molto molto sottovalutato dalla maggior parte dei media, ma ci teniamo a raccontarvi quello che sta accadendo nel Sahel per ricondurre ai sommi capi la recente dinamica degli ultimi mesi, degli ultimi anni, l'instaurazione di un califfato informale con una serie di gruppi jihadisti legati o ad Al-Qaeda o allo Stato Islamico, che tra Niger, Chad, Mali e Burkina Faso compiono scorribande e molto spesso attaccano postazioni militari e religiose. È notizia di poche ore fa di un attacco a un villaggio nel nord del Burkina Faso. Le fonti discordano sul numero di vittime, si parla di almeno 10 morti, 30 secondo fonti della sicurezza burkinabè. Particolare, come dire, inquietante, ma che va a tratteggiare ancora se volete, con maggiore plasticità anche la ferocia di questi attacchi. Pare che però questa volta gli jihadisti, che molto spesso si muovono su piccoli mezzi veloci, su queste piste del deserto, piccole moto per intenderci, o piccoli pick up con mitragliatrici montate sopra, ebbene, avrebbero fatto scappare donne e bambini dal villaggio per poi uccidere la maggior parte degli uomini. Afghanistan è giallo sull'aereo militare caduto ieri a Ghazni, in piena zona talebana. Ve lo dicevamo, all'inizio sembrava un aereo civile afghano, poi soprattutto da video che avevano iniziato a circolare su Twitter abbiamo intuito e compreso, poi confermato dalle agenzie, che era un aereo militare statunitense. E se andate a vedere un po' di siti specializzati in analisi di apparecchiature di aerei militari, si è scoperto che è un aereo in particolare utilizzato per le comunicazioni in contesti particolarmente difficili. Dicevo mistero perché al momento la zona che è controllata dai talebani non è raggiungibile dalle forze di sicurezza afghane e dai mezzi di soccorso, tanto che chi ci ha provato ha dovuto ingaggiare una serie di violenti scontri a fuoco proprio con i taliban. I talebani stessi, per bocca di un portavoce, hanno riferito che vi potrebbero essere stati a bordo almeno due persone vive, e si diceva profili di alto livello della CIA addirittura, niente meno. E stiamo continuando a cercare conferme, naturalmente cercheremo di fare luce su questo mistero che, se fosse confermato nei termini che vi dicevo prima, cioè figure dell'amministrazione statunitense, addirittura dei servizi di alto livello, questo davvero potrebbe essere l'incipit di qualcosa di diverso, una nuova pagina di violenza in Afghanistan, ma ovviamente speriamo di no. Poi andiamo in Turchia perché interessante, mettiamola così, uso un eufemismo, una lettera inviata dal ministro degli esteri turco Cavusoglu, in particolare Josep Borrell, responsabile della politica estera dell'Unione Europea. Che cosa fa Cavusoglu? Con molto garbo batte i pugni sul tavolo e dice di riprendere le trattative per l'adesione europea inspiegabilmente interrotte, avviate nel 2005 e inspiegabilmente interrotte poi negli anni successivi. E in buona sostanza nella lettera il ministro degli esteri di Ankara dice: dobbiamo valutare quelli che sono i comfort, gli interessi reciproci tra Turchia e Unione Europea nel suo complesso, e non badare alle singole dispute che Ankara potrebbe avere con i singoli paesi europei. Ricordate quella piccolissima contesa con la Grecia, per esempio, oppure con le navi di estrazione petrolifera dell'ENI, quell'accordo con la Libia? Ecco, probabilmente si riferiva proprio a quello. Ultimo capitolo del GR, lo avete sentito, il ministro degli esteri Luigi Di Maio ha alzato il telefono, ha chiamato l'omologo tedesco Erich Maas, ma anche l'omologo austriaco, e in sostanza si è detto estremamente dispiaciuto del fatto che in Libia non venga rispettato né l'embargo né il cessate il fuoco. Però, fermi tutti. Bengasi ha 4 giorni di capacità di stoccaggio di benzina, 12 giorni di gasolio e 12 giorni di GPL. Tobruk ha 5 giorni di capacità di stoccaggio di benzina, 7 giorni di gasolio e 2 giorni di GPL. Mentre Sebha, nel sud, non ha capacità di stoccaggio di benzina, GPL, e ha solo 10 giorni per il gasolio. In Libia, se non si esporta il petrolio già presente nei porti, non è possibile continuare a far confluire altro petrolio, cosa che potrebbe portare allo stop della produzione. Oggi il capo della National Oil Corporation, Mustafa Senalla, ha rivelato che la produzione di petrolio della Libia potrebbe diminuire a 72.000 barili al giorno. Insomma, il tempo corre. È il momento adesso di aprire la prima, in realtà devo dire unica pagina, perché questo è il tema centrale di questa puntata. Ci occuperemo di questo piano che deve essere svelato ormai tra pochissimo, mancano poco più di 90 minuti. Stiamo buttando l'occhio alle CNN e ai grandi network americani perché vi dovrebbe essere l'annuncio in prima persona del presidente Donald Trump, lo dicevo, 50 miliardi di dollari di investimenti. Sostanzialmente una cordata di volonterosi investitori europei, ma anche paesi arabi del Golfo, che dovranno dare una mano a sanare la fragile e vulnerabile economia dei palestinesi, e allo stesso tempo il riconoscimento di molti degli insediamenti considerati dalla comunità internazionale illegali in Cisgiordania, o West Bank se preferite, e il proseguimento, se volete, il primo passo di quell'annessione da parte sia di Benjamin Netanyahu che di Benny Gantz, suo contendente, il 2 marzo, l'annessione, dicevo, della Valle del Giordano. Con quali conseguenze? Questo sarà un racconto che si svolgerà su due piani. Da una parte staremo a Washington a seguire le dichiarazioni più prettamente politiche, dall'altra andremo sul terreno per capire meglio gli umori e i sentori della popolazione. Ma adesso andiamo a Washington. This is a plan that's very important to peace in the Middle East. No matter where I went, they say Israel and the Palestinians, they have to make peace before you can really have peace in the Middle East. Trump nei giorni scorsi si è lasciato andare a dichiarazioni piuttosto pompose e soddisfatte. È stato definito il piano del secolo. L'amministrazione statunitense sta tentando la più grande scommessa forse negli ultimi anni, riuscire a fare quello che gli altri presidenti non erano riusciti a fare, riuscire a fare quello che interi paesi, cordate, sforzi diplomatici non erano mai riusciti a fare. Per far questo però, cioè per far fare la pace a Israele e Palestina e per mettere un punto fermo su un nuovo processo di dialogo e di pace, c'è bisogno anche dell'aiuto di altri attori, su tutti evidentemente gli stati arabi. First of all, I'm very honored to be here with you here today, Mr. President, and I look forward to making history with you tomorrow. E nel frattempo c'è anche Benjamin Netanyahu, detto Bibi, che si trova in un momento politico particolare. Adesso vi spiegherò meglio perché sono accadute cose proprio nelle ultime ore e in vista del 2 marzo, insomma, la salita verso la riconferma premier israeliano si fa sempre più difficile. Detto ciò, sentiamo le parole di Benjamin Netanyahu. First of all, I'm very honored to be here with you here today, Mr. President, and I look forward to making history with you tomorrow. Faremo la storia insieme, così ha detto il premier israeliano rivolgendosi al presidente statunitense Donald Trump. Mentre a Washington si celebrava quello che è stato soprannominato The Deal of the Century, l'accordo del secolo, sentite cosa succedeva in Palestina, in particolare nella striscia di Gaza. Proteste, manifestazioni, persino un fantoccio di Trump che veniva bruciato. A Washington, benché invitata, l'autorità nazionale palestinese non si è presentata perché si sono rifiutati di firmare, sottoscrivere, come dire, mettere il cappello su un accordo che a loro parere assolutamente cosa fa? Va a congelare la situazione di adesso, una realtà che da quella soluzione due stati sta inesorabilmente e nella realtà delle cose scivolando verso la soluzione di un unico Stato. Vi dicevo, Netanyahu, in tutto questo c'è un ulteriore livello, un ulteriore piano, che è quello della politica interna israeliana, che va a intrecciarsi evidentemente con la politica estera. Netanyahu ha ritirato la richiesta dell'immunità alla Knesset, cioè al Parlamento israeliano. Vi ricorderete, ne abbiamo dato notizia, che Netanyahu è incriminato per corruzione, frode e abuso di potere in 3 inchieste giudiziarie. Parallelamente però, mentre Netanyahu ritirava, come dire, il suo scudo dell'immunità dicendo non ne ho bisogno, sicuro di farcela, forte dei numeri, nel frattempo il procuratore generale aveva inviato al tribunale di Gerusalemme proprio il formale atto di accusa contro Benjamin Netanyahu. In questo modo ha sparigliato le carte, soprattutto dal punto di vista della tempistica. Detto ciò, la prima cosa da fare in questi casi è andare lì dove succedono le cose e dove ce le racconta. Nello del Gatto, redazione esteri di AGI, Agenzia Giornalistica Italia, reporter di lungo corso, ora tra Gerusalemme e la Giordania. E dico questa cosa perché Nello del Gatto è, come dire, un pendolare sui generis, ma attraversa molto spesso proprio quella Cisgiordania che sarà oggetto, crediamo tutti, di questo Deal of the Century. Nello, buongiorno, ben ritrovato, Nessun Luogo Lontano. Buongiorno a voi. Da napoletano non potrebbe essere diversamente, insomma, il fare avanti e indietro l'emigrante. Scherzi a parte, ma noi consideriamo geograficamente un dato. Sì. Da Gerusalemme ad Amman i chilometri sono veramente pochi. Da Gerusalemme, sì, al confine sono 40 chilometri. Sì. Da Amman al confine sono altri 50, quindi insomma potete immaginare che veramente si potrebbe fare il commuting ogni giorno per andare a lavorare da Amman a Gerusalemme se non ci fosse un controllo al confine, insomma, un po' serrato, ecco. Sì. Sì, questo allora ci hai dato, come dire, un'immagine particolarmente plastica di quella che è la situazione sul terreno. Se voi immaginate che possa essere facile circolare tra i territori israeliani e quelli cosiddetti occupati, non è affatto così. Se voi pensate che uscire dalla Cisgiordania per recarsi in Giordania sia facile, non è esattamente così. È una situazione complessa evidentemente, e anche per un giornalista, Nello Del Gatto, a volte vi possono essere problemi di spostamento. Detto ciò, le ultimissime, Nello, ci dicono che battaglioni del Golani, cioè un battaglione del Golani, che sono questi rinomati battaglioni dell'esercito israeliano, si starebbero schierando da Nablus un po' più verso sud per andare, come dire, a prevenire qualsiasi situazione rischiosa. Lo dicevo, tra un po' si annuncerà questo deal of the century. Qual è la situazione? Che area tira in Cisgiordania? Come i palestinesi stanno per accogliere, manca davvero poco, questo nuovo piano del secolo? Quello che dice è molto vero, come anche il fatto di passare da una parte all'altra non è semplice. Voi considerate per esempio che anche gli italiani che vivono in Palestina, perché magari hanno sposato un palestinese ma che sono cittadini italiani, non possono passare, per prendere un aereo non possono andare a Tel Aviv ma devono andare in Giordania, ad Amman. Per andare in Giordania passano una serie di controlli non indifferenti, possono passare solamente da uno dei tre confini che ci sono fra Israele e la Giordania, uno a nord, uno al centro che sarebbe appunto questo qui della Valle del Giordano chiamato Allenby, e quello a sud dove c'è Eilat. In questo momento l'IDF ha aumentato, che sarebbe l'Israeli Defense Force, sì, ha aumentato il controllo di tutte le aree di confine, ma proprio perché insomma si aspettano manifestazioni contro il piano. Perché? Perché l'autorità palestinese, più che i palestinesi, ha annunciato il giorno della rabbia per oggi. Perché dico l'autorità palestinese più che i palestinesi? Perché in verità il problema del piano è un problema sentito e avversato in parti diverse, sia in Israele che in Giordania, che in Palestina, mi spiego. Per molti palestinesi il fatto di avere lo Stato palestinese può essere una iattura, perché lo Stato palestinese non è capace di gestire i palestinesi, non è capace di gestire uno Stato. Sì. Molti dicono preferiremmo stare realmente sotto occupazione, perché almeno così Israele ci garantisce una serie di cose, come dicono i palestinesi che ormai sono cittadini israeliani da tempo, dico città come Nazareth e altro. Dall'altro lato i coloni non vogliono assolutamente, i coloni israeliani non vogliono assolutamente questo piano, perché se è vero, noi non sappiamo ancora perché lo leggeremo, probabilmente ci sarà una mappa che metterà a disposizione Trump, in questa mappa si vedrà che Israele si prende questa benedetta valle del Giordano, ma cede una serie di territori. In questa serie di territori praticamente soltanto il 20% di quest'area sarebbe nella Valle del Giordano e lascerebbe il 10% nelle altre aree. Quindi la Palestina controllerebbe poi dal 70 all'80% di tutta la Cisgiordania. Questi coloni non vogliono assolutamente una soluzione del genere, perché loro dicono noi sennò diventiamo noi, come dire, minoranza in uno stato avverso, e sarebbero 15 gli insediamenti che in questo modo non potrebbero più neanche espandersi, cosa che ovviamente si augura tutta la comunità internazionale, ma che ovviamente non si augurano i coloni. Quindi voglio dire, questa situazione è veramente avversata da tutti fondamentalmente, non si riesce a trovare la quadra. Sì, e fa specie invece sentire queste dichiarazioni per il momento entusiaste che arrivano sia dai vertici israeliani che da quelli statunitensi. Nello Del Gatto, mi hai restituito il termometro dei palestinesi, hai sottolineato una cosa importante che ormai, e l'abbiamo sottolineata anche noi da qui ospitando analisti palestinesi e voci della società civile, molti dei palestinesi dicono ma va benissimo uno Stato, quello israeliano, però dateci più libertà di movimento, diritto di voto e quell'efficienza innegabile dell'economia israeliana, cosa che l'autorità palestinese assolutamente, pur con tutte le giustificazioni di una situazione assolutamente fuori da ogni standard, può garantire. Dicevo, ci hai restituito il termometro palestinese, io invece ti restituisco quello dei miei ascoltatori. ascoltatori che già iniziano a commentare al 349-238-6666. Cami da Caorle, piano marcia per la Palestina, ma mi sa di piano per la rielezione di Trump, speriamo, ma magari mi sbaglio. Sono maligno, dice un altro ascoltatore, se sospetto che la tempistica sia elettorale. Trump vorrà accaparrarsi parte del voto ebraico, storicamente riserva dei democratici. E poi ancora, se a Trump riesce questa operazione di pacificazione, uno, non ci sarà impeachment che tenga, due, forse il signor Trump è meno sprovveduto, per usare un eufemismo, di quanto sembra, così Pierpaolo. La risposta ai commenti, a questi vostri ulteriori commenti, arriveranno ormai veramente tra pochissimo, perché ci siamo quasi, verrà presentato il piano e nei dettagli capiremo anche la nuova mappatura di Israele e Palestina a seconda appunto delle mosse di Trump. Siamo con Nello Del Gatto, scrive per Agi, agenzia giornalistica Italia, fa la spola tra Gerusalemme e Amman, ben conosce quei territori e ben conosce anche le pieghe della politica israeliana, che, dicevo Nello, ha preso, perdonate la ripetizione, come dire, una piega inaspettata. Dicevo, Benjamin Netanyahu, pronto per risottomettersi al voto degli elettori il 2 marzo, rinuncia all'immunità di fronte al Parlamento. Nel frattempo la Procura Generale manda i capi di imputazione al Tribunale di Gerusalemme. È andato qualcosa di storto nel calcolo del timing o che altro? Ma lui si aspettava, insomma, che ovviamente Mandelbilt, il procuratore generale, andasse in tribunale, sperava che lo facesse domani o dopodomani, insomma, perché sapeva che lo faceva. Il punto è che lui ha rinunciato all'immunità soltanto perché oggi si riuniva la commissione, si riuniva la Knesset, il Parlamento, che poi doveva praticamente decidere la composizione della commissione, diciamo la giunta per le esecuzioni, per intendersi, sì, nel Parlamento. E questa giunta non avrebbe avuto i numeri per salvare, tra virgolette, Netanyahu, ma l'avrebbe condannato. Lui voleva evitare una sconfitta politica, ecco, sì, perché si è tirato indietro. Sperava che Mandelbilt andasse in tribunale domani o dopodomani, così che lui potesse tornare vittorioso da questa cosa. E tra l'altro si è assicurato un altro risultato politico non indifferente interno, perché tornando da Washington lui si fermerà a Mosca, dove probabilmente si porterà appresso, oppure comunque insomma firmeranno l'accordo per, sì, questa ragazza Nama, che è in galera ormai da diversi mesi, sì, arrestata in Russia. Quindi lui sperava in una possibilità, in un ritorno politico notevole sotto questo aspetto. La cosa non lo colpirà più di tanto, nel senso che poi alla fine, come ogni buon politico populista, dimostrerà di aver fatto tutto per il bene della nazione e che soltanto la magistratura e la gente che gli va contro, insomma, sì, fondamentalmente la gente, insomma, che non lo stima. Ma se l'accordo, come il piano verrà proposto, come stanno dicendo, con queste cifre, 50 miliardi come dicevi tu, con 28 miliardi che danno alla Palestina, insomma, è lo stesso fatto che poi molti stati arabi, perché non ci dimentichiamo questo, che moltissimi stati arabi, a parte l'Egitto e la Giordania, che ovviamente hanno i loro interessi, ma anche i paesi del Golfo, in un certo senso non hanno subito detto no, anzi il re Giordano ha parlato di bicchiere mezzo pieno, insomma, di punto, sì, di partenza. Sì. Avendo questo endorsement, Netanyahu, insomma, può solo giovarne, anche se sarà il primo ministro israeliano che va alle elezioni, insomma, sotto essendo stato imputato. Sì, devo dire che anche sui post sulla sua attività di social, parlo di Netanyahu, evidentemente ricalcava proprio questa linea, non voglio dire vittimista, ma come dire, si appoggiava a questa retorica: io lavoro per il bene del paese, non è possibile, guardate, sto facendo il piano con Trump, che questi giudici vadano a occuparsi di questi nezzi e di queste sottigliezze come corruzione, frode, eccetera eccetera. Detto ciò, la risposta sarà appunto, arriverà dagli elettori israeliani, l'appuntamento è il 2 marzo e quindi, Nello, se non accadono, non accadranno un finimondo, e spero che appunto non accada, ci risentiremo naturalmente anche per quell'appuntamento. Grazie mille, Nello Del Gatto, agenzia giornalistica Italia. Buona giornata, buon lavoro, Nello. Grazie a voi, arrivederci. 349-238-6666 per i vostri commenti, le vostre analisi, le vostre domande. Rossella da Roma: è fondamentale conoscere dove sono i pozzi d'acqua, fonte di agricoltura. Sono pienamente d'accordo, non soltanto i pozzi d'acqua, ma anche per esempio i terreni strettamente agricoli. Di questo vi darò conto tra pochissimo, perché anche la ripartizione in quelle tre aree, zona A, zona B, zona C, a seconda dell'influenza o israeliana totalmente o palestinese o mista, come dire, crea una geografia parallela con accesso alle risorse e condizioni di vita evidentemente diverse. Chissà se il team di analisti di Donald Trump avrà tenuto conto anche di questa cosa. Adesso facciamo una piccola pausa, andiamo a sentire come stanno andando le borse, l'informazione finanziaria, poi continuiamo con questo viaggio di Nessun Luogo Lontano. Nessun luogo è lontano. Ancora buona giornata e ben ritrovati ascoltatrici e ascoltatori. Questo è un giorno importantissimo per l'amministrazione americana, per la presidenza Donald Trump, ma anche per Benjamin Netanyahu, per gli israeliani, per i palestinesi. Viene presentato quel piano che è stato rimandato per mesi, studiato nei dettagli e pronto per vedere la luce. Un piano che, sono filtrate un po' di informazioni, prevede 50 miliardi di dollari di investimento, una cordata di vari paesi che aiuteranno a dare linfa vitale alla fragile, vulnerabile e ormai anche martoriata economia palestinese, che, come dire, metteranno il suggello, il cappello sulla politica israeliana che negli ultimi anni ha continuato a permettere i nuovi insediamenti, benché contrari alle leggi internazionali, e lo stesso Trump a un certo punto ha detto non sono più illegali, e con quali conseguenze? Un ridisegno sostanzialmente della mappa di quella zona per come la conosciamo adesso. Tra pochissimo, dopo questa trasmissione, parlerà Trump in diretta, noi naturalmente domani proveremo a commentare. Al momento però possiamo affidarci alle notizie che sono trapelate, alle analisi, come sempre cerchiamo di ospitare le voci più autorevoli, più interessanti, quelle che possono accendere in qualche modo delle luci e dare dei punti di vista diversi e, ripeto, interessanti. Vi faccio sentire la voce di Hugh Lovat, che è un analista e un ricercatore del Medio Oriente all'European Council of Foreign Relations, al quale la prima domanda evidentemente è stata, e abbiamo chiesto, quale sarà l'impatto sulla questione israelo-palestinese in generale di questo nuovo piano. Sentite. Sono solo speculazioni al momento, ma si tratta pur sempre di speculazioni basate su buone informazioni e su ciò che l'amministrazione americana ha detto che ci sarà e non ci sarà nel piano. Su queste basi credo che quello che l'amministrazione americana sta proponendo non è altro che il rifiuto del tradizionale paradigma due stati che la comunità internazionale e i suoi sforzi avevano messo in piedi. Al posto di questo paradigma, gli USA stanno proponendo un piano che va a formalizzare una realtà di uno Stato di diritti diseguali per i palestinesi. La voce di Hugh Lovat da Londra è un ricercatore, analista, esperto di Medio Oriente e in particolare della questione israelo-palestinese. Scrive, lavora, fa analisi per l'European Council on Foreign Relations. Dati i tanti soldi promessi, 50 miliardi di dollari, c'è già qualche ascoltatore che ha scritto al 349-238-6666 Trump vuole comprare i palestinesi. Ecco, ho provato a chiedere proprio a Hugh Lovat se in qualche modo non vi fosse un tentativo, perdonatemi il termine, ma di acquisto sostanzialmente dell'ideologia palestinese, di quella bandiera che molti palestinesi vorrebbero potesse sventolare in nome di una realpolitik, in nome di una realtà di fatto, perché già, come vi abbiamo dato conto negli ultimi mesi, in ultime settimane, si sta viaggiando inesorabilmente verso la soluzione di un unico Stato. Sentite cosa ci racconta, cosa dice l'analista britannico. We should note that the money for this decision will mostly not come from the US. Gli americani hanno proposto una visione economica. Dovremmo intanto sapere che la maggior parte del denaro non arriverà dagli USA, ma dovrebbe arrivare dagli stati arabi del Golfo e anche dagli stati europei. Penso ci sia un problema politico in una visione assolutamente economica portata avanti da un team che non ha una visione politica. Credo che sia un difetto di base. In un'ottica più ampia, mi pare che l'amministrazione Trump creda che i palestinesi possano essere comprati, che di fatto li si possa corrompere per farli desistere dalla loro richiesta di uno Stato. E credo che, basandosi sulla storia, insomma, mi pare che questa sia una premessa sbagliata. Quindi credo che questa proposta non solo non fornirà una sostenibilità economica allo Stato palestinese, ma sarà insufficiente per risolvere davvero il conflitto. o anche solo congelarlo, come dice lei. Dovremmo tenere in mente che la situazione sul terreno oggi non è uno spazio dello status quo. Con o senza i fondi statunitensi, la realtà sta comunque scivolando verso la realtà di uno Stato unico. La fotografia che ci consegna Yu Lovat, analista dell'European Council on Foreign Relations, esperto di questioni israelo-palestinese, non è rassicurante. In buona sostanza concorda in chi osserva, come dire, una preminenza del lato economico di questo piano di Trump, che qualcuno riassume in maniera estremamente prosaica: con Trump si vuole comprare i palestinesi, e dall'altra il fatto che comunque non va a risolvere i vulnus che sono sul terreno. Altri ascoltatori continuano a dire: l'acqua è fondamentale, spesso l'abbiamo raccontata qui nel Sul Luogo Lontano, la guerra dell'acqua, l'accesso alle risorse come formidabile lente per capire tanti conflitti e tante tensioni, e non fa eccezione evidentemente anche il dossier israelo palestinese. Abbiamo parlato anche dei paesi arabi del Golfo, ma cosa c'entrano i paesi arabi del Golfo? Perché dovrebbero essere interessati a investire milioni, miliardi di dollari nella questione, nel benessere dei palestinesi? Sapete, molto spesso tanti paesi arabi invocano la questione palestinese, i diritti dei palestinesi come vessillo, come baluardo dell'anti-americanismo e dell'anti insomma dell'essere anti-Israele, però poi alla fine, come dire, nella realtà dei fatti i palestinesi sono i primi a essere stigmatizzati dagli altri arabi stessi. Insomma, in buona sostanza, perché Riyadh, l'Arabia Saudita, dovrebbe investire nella Palestina? Sentite cosa dice Yu Lovat. Da un punto di vista strettamente finanziario non ci sarà un vero interesse. Dal punto di vista politico, diciamo che si ritroveranno intrappolati nel mezzo. Da un lato vogliono bilanciare i loro rapporti con l'amministrazione Trump, quindi non rigettare immediatamente il piano di Trump, ma allo stesso tempo questi paesi hanno la loro situazione politica interna, per cui non vogliono essere percepiti come quelli che tradiscono i palestinesi. E alla fine penso che questo piano sia un diversivo sgradito per i paesi arabi del Golfo. È chiaro che quello che conta per loro è il continuo avanzamento del processo di normalizzazione con Israele, fra preoccupazioni economiche e di sicurezza. E più i palestinesi percepiranno un tradimento, più il processo di normalizzazione sarà difficile. L'interessante analisi di Yu Lovat, analista dell'European Council on Foreign Relations, sostanzialmente dice che i paesi del Golfo stanno giocando su un filo. Da un lato, come dire, bilanciare, ribilanciare i rapporti con Israele e con gli Stati Uniti. Dall'altro, non mandare in fumo, in brandelli, non lacerare la bandiera palestinese, che per tanti paesi arabi è sempre stato, ripeto, un vessillo, una leva politica da sbandierare alla bisogna, e quindi non scontentare troppo anche le questioni palestinesi. Come si vede, come abbiamo detto più volte da questo microfono, la questione israelo-palestinese è una questione super complessa che affonda le radici nella storia, estremamente divisiva, che spesso trova anche un tifo da stadio che assolutamente non gli si confà. Oggi stiamo cercando di raccontarvi i pochi minuti prima dell'annuncio bomba dell'accordo del secolo, così Donald Trump lo ha soprannominato. 349-238-6666, non leggo da qualche minuto i WhatsApp, ma leggo invece gli SMS che stanno arrivando. C'è un ascoltatore che non si firma, che dice: Israele è la base degli americani in Medio Oriente, punto. E così, come dire, per spiegare anche la dinamica che vi stiamo raccontando, quei voli verso Washington, non soltanto, lo ribadiamo, è di Benjamin Netanyahu, il premier che si ricandiderà ed è pronto a sottoporsi al voto popolare il 2 marzo, ma anche di Benny Gantz, il suo contendente, il partito bianco-blu, che guarda caso negli ultimi settimane si è, come dire, allineato su quella che è la politica verso il West Bank. Tra pochissimo apriremo l'ultima pagina di Nessun Luogo Lontano, quella di pura analisi, se preferite, o come amo dire io, metteremo il grandangolo. Prima di farlo però andiamo sulle strade italiane, poi di nuovo Nessun Luogo Sarà Lontano. Nessun luogo, nessun luogo è lontano. A Ancora buona giornata, ben ritrovati ascoltatrici e ascoltatori. Questa è l'ultima pagina di Nessun Luogo Lontano, una puntata tutta dedicata alla grande attesa per il piano del secolo. Donald Trump e la sua amministrazione promettono di portare la pace in Medio Oriente e dirimere un conflitto ormai più che decennale, decadi e decadi devo dire assolutamente, di conflitto, di tensioni, di interessi economici. Finalmente ho recuperato, grazie a Sandro che ha fatto un'incursione in studio, mi ha rimesso a posto il tablet, posso finalmente leggere meglio i vostri commenti. A prescindere dalla bontà della proposta, così scrive un ascoltatore, i palestinesi giocano una mano al buio, temporeggiare sperando in un nuovo presidente democratico oppure bere l'amaro calice prima che Trump imponga altri fatti compiuti come Gerusalemme capitale. Beh, gentile ascoltatore, intanto, come dire, analisi che si commenta da sola, nel senso che mi sembra molto lucida. D'altra parte forse la risposta non c'è, mi sembra che metta perfettamente a nudo un'incapacità, e questo è innegabile, dell'autorità nazionale palestinese nel gestire non soltanto i territori, ma anche una politica estera fatta probabilmente anche in maniera un po' maldestra, ma ben faceva Nello del Gatto a disgiungere, a dividere quelle che sono le volontà, le aspirazioni dei palestinesi da quelle dell'autorità, anche parlando di, allargo veramente il discorso, Hamas e Fatah. L'ultima volta che sono stato nella zona appunto della Cisgiordania, come dire, si sentiva uno scollamento, una tensione da parte della società civile palestinese verso queste rappresentanze non ritenute adeguate, l'altissimo tasso di corruzione. Insomma, ancora una volta, se dovessimo battezzare un hashtag, sarebbe complessità allo stato puro. Giacomo da Bergamo, che mi accusa di essere un vero antisemita che usa in piazza il vessillo della Segre ma poi appoggia il terrorismo palestinese. Gentile Giacomo, io credo che abbia sintonizzato la radio su un altro canale. La prego di andare a riascoltare le parole, i concetti, i contenuti che abbiamo esposto in questa quasi ora di trasmissione, prima di fare accuse che sono infamanti oltre che sbagliate, e francamente le trovo anche irritanti. Mi irrito difficilmente, però questa mi irrita particolarmente. Detto ciò, mi scrollo l'irritazione di dosso, prendo sulla macchina fotografica, ci metto il grand'angolo, ma il click lo faccio fare a Eugenio Da Crema, analista di ISPI. Buongiorno Eugenio, ben ritrovato qui a Nessun Luogo Lontano. Buongiorno a voi. Allora, stiamo cercando di capire se questo piano del secolo sia davvero il piano del secolo o una formidabile leva politica che, come dire, fa gioco a Trump, fa gioco a Netanyahu, fa gioco ai paesi del Golfo, e gli unici forse che esattamente, come dire, non saranno contentissimi saranno proprio i palestinesi. Tu che cosa dici? Sì, fa gioco a diversi attori. Io penso che a questo punto a Trump prima di tutto, poi forse a Netanyahu, anche se Trump comunque si è premunito comunque di coinvolgere in maniera importante anche Gantz, che è il principale avversario politico di Netanyahu, sì, coinvolgendolo anche un po' nelle negoziazioni per questo deal, sapendo che comunque la scena politica israeliana è ancora apertissima e potrebbe essere ancora aperta nonostante, anche dopo le elezioni del 2 marzo. Sì. Io credo che ci sono altri perdenti, magari un po' meno diciamo così nominati spesso. Prima di tutto c'è la Giordania, è un grande, sì, un grande perdente. E poi all'interno delle fazioni diciamo delle fazioni della società palestinese, siccome è importante andare a cercare di capire a questo punto, perché da una parte chiamare i palestinesi perdenti purtroppo è una realtà, nel senso che ormai lo status quo che di fatto questo deal, questo accordo riconosce, è appunto un dato di fatto, sì, sul terreno, che difficilmente, come diceva il primo ascoltatore, il primo messaggio che, sì, ho ascoltato con voi in diretta, diceva bene, è difficile pensare veramente, ma non soltanto un prossimo presidente americano, ma che si ripropongano quelle condizioni abbastanza ideali, che poi abbiamo visto comunque non sono state sufficienti per un accordo tipo quello di Oslo, per una stretta di mano a Camp David come nel 98, sì, un clima del genere è abbastanza improbabile in un futuro che si può intravedere all'orizzonte. Sì. A questo punto forse si può ipotizzare che ci sia una parte della società palestinese molto stanca anche di un continuo deterioramento della situazione economica, che sputare sopra poi sulla carta, certo, quantomeno, bisogna essere reali, ma scusate, se fa 50 investimenti per 50 miliardi di dollari con quelli che si sono messi in Bahrain l'anno scorso, forse ci pensano un attimo, sì, sapendo, immaginando che comunque uno status quo profondamente ingiusto lo devono accettare comunque. Certo, certo, ma io, hai fatto bene, Eugenio, a sottolineare, forse diciamo, uno dei vulnus fondamentali è questo: da un lato una situazione palestinese per molti insostenibile, dall'altro quell'offerta irresistibile, 50 miliardi, ma qualche ascoltatore dice attenzione, va bene mandare 50 miliardi in Palestina, ma poi bisogna spenderne tanti altri per controllare che i soldi vengono spesi bene. Qua va a toccare davvero quel punto che dicevamo di corruzione, di meccanismi, di gangli, di un'economia chiusa e non per volontà dei palestinesi, evidentemente. Eugenio, proviamo a fotografare quella che è la dinamica economica palestinese e poi torno da te con l'ultima domanda. Secondo l'ultimo report della Conferenza delle Nazioni Unite sul commercio e lo sviluppo, le condizioni socio-economiche della popolazione palestinese hanno raggiunto un livello limite. Nel 2018 e all'inizio del 2019 l'economia palestinese è rimasta stagnante. Reddito pro capite diminuito dell'1,7%, disoccupazione alle stelle e condizioni ambientali poco favorevoli. Questa situazione si trascina da anni. Tra il 1994 e il 2018 la produzione manifatturiera è passata dal 20% all'11% del prodotto interno lordo, mentre la produzione agricola è passata dal 12% al 3%. Il rapporto parla chiaro. Le ragioni alla base di questo collasso economico e delle condizioni difficili in cui vive il popolo palestinese sono legate all'occupazione israeliana della Cisgiordania. L'attività produttiva palestinese è fortemente limitata da restrizioni amministrative e fisiche imposte da Israele, come anche lo sfruttamento delle proprie risorse di petrolio e gas naturale a Gaza e in Cisgiordania. La maggior parte della popolazione palestinese vive nell'area A e B della West Bank, ma le infrastrutture fondamentali per il loro sostentamento si trovano o passano nell'area C. Quest'area, che comprende il 6% della Cisgiordania e che detiene le maggiori risorse idriche del territorio, pascoli e fertili terreni agricoli, è completamente off-limits per i palestinesi. In quest'area, Israele controlla il 90% delle risorse idriche. A Gerusalemme Est, il 44% dei palestinesi è collegato alla rete idrica, mentre a Gaza solo il 10,5% dei palestinesi ha accesso all'acqua potabile. Oltre il 96% dell'acqua proveniente dalle falde acquifere di Gaza è inutilizzabile e questo costringe i palestinesi ad acquistare l'acqua a prezzi esorbitanti. Eugenio Da Crema, analista di ISPI, questa è la spietata fotografia, dati ONU incrociati con fonti giornalistiche, che ci arriva dai territori occupati. Bastano 50 miliardi di dollari e evidentemente quella cifra potrebbe, sulla carta, risollevare la tragica situazione che abbiamo fotografato, ma vorrebbe dire immolare sull'altare dell'economia, di un maggiore benessere, ideali politico-religiose che fino a questo momento sono stati il grande motore, no, di tanti movimenti palestinesi. Ce la farà il vile denaro anche a sconfiggere questo aspetto, secondo te? Sì, sono d'accordo con la tua analisi. Se questa domanda me l'avessi fatta anche solo una decina di anni fa, sarei stato piuttosto sicuro nel dirti assolutamente no, proprio perché sì, almeno nelle mie visite, specialmente negli anni 2000, nell'ultimo più di 10 anni fa, era ancora forte, si sentiva forte questo sentimento anche di orgoglio, di risoluzione collettiva contro uno status quo ingiusto che comunque era imposto da forze estremamente maggiori. L'impressione che si ha, che ho io e che hanno anche altre persone che lavorano e vivono, altri osservatori che lavorano e vivono nell'area, è che questa risoluzione, un po' questa spinta ideale, si sia persa. C'è molta disillusione, sia questo ormai da molto tempo nelle autorità palestinesi, in Fatah, in quella che poi è stata un po' questo simbolo un po' della corruzione del sistema politico palestinese, specialmente nella West Bank. Sì. Ma questa disillusione si è estesa grandemente anche a quelli che erano un po' l'opposizione, quelli visti un po' come gli underdog, però più cattivi tra virgolette, ma visti come più onesti dalla popolazione palestinese, come era una volta Hamas per esempio che ormai specialmente il governo di Gaza si è dimostrata non poi tanto meglio di Fatah nella West Bank. Per cui quello che ci mette un po' tutti d'accordo gli osservatori degli ultimi anni è proprio questa percezione di disillusione che può portare a un po' una perdita di risoluzione collettiva che c'era fino a qualche anno fa, e quindi un'accettazione di fatto almeno stiamo un po', non è una soluzione, non è giusto, ma è una pace. Lo dicevo oggi un giornalista italiano molto bravo in un lungo tweet sintetico che siamo in chiusura, ho 10 secondi. Sì, diceva non è chiamarlo accordo di pace è sbagliato, però assolutamente la domanda è meglio dello status quo che c'è adesso? Può essere un passo in avanti verso una direzione migliore oppure no? E la risposta credo che arriverà con i dettagli del piano, Eugenio, che anche tu insomma starei con gli occhi sulle agenzie e sulla CNN per capire l'annuncio di Trump, cosa che faremo noi, ma adesso una sola parola. Titoli di coda con i quali ringrazio voi che siete stati all'ascolto, tutta la squadra di Nessun Luogo che anche quest'oggi si è prodigata per confezionare questa puntata. L'appuntamento è per domani ore 16. Un saluto da Gianpaolo Musumeci.